Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Oramai ho un naso provato e accertato nel valutare lo spessore professionale delle persone che ho davanti a me in treno. Quindi mi sorprendo che l'uomo che ho davanti dovrebbe normalmente avere il suo smartphone in mano, tutt'al più avere il sole 24 ore piegato sulle ginocchia, tutt'al più avere un libro che parla di economia o parla comunque di prassi aziendali, perché chiaramente un uomo che è inserito nel mondo del lavoro. Invece è uno di quei libri che normalmente si comprano alle stazioni, quei libri di curiosità, di lettura trasversale, di storia alternativa. Insomma, devo capire esattamente perché un uomo del genere, così compassato, così perfettamente calato nella parte del manager, legga un libro che parla di ipnosi. Si interessa di ipnosi, vedo. Anche di ipnosi, sì. È una cosa che mi affascina da diversi anni. Lei che fa nella vita? Io sono un imprenditore del Nord-Est, come si può capire anche dall'accento. Ah, quindi si occupa di aziende, di mercato, di vendite? Sì, ho un paio di aziende in Austria, in Italia, c'è 350 collaboratori. Beh, è un grosso imprenditore. La cosa strana sembra proprio questo, no? Che io debba essere comunque sempre molto legato all'oggettivo, invece si può fare l'imprenditore anche pensando che ci siano cose diverse che non i conti delle banche o i fornitori da pagare. Vabbè, i soldi, guardi, da recuperare. C'è chi va in bicicletta, c'è chi va dallo psicanalista e lei studia l'ipnosi, la compensa, penso, no? Ma siamo in tanti, perché se lei prova a parlare di queste cose qua anche in treno, per esempio, se si gira in altri vagoni, vedrà che l'aggancio viene facile, perché tantissima gente è appassionata di questo. Magari c'è la possibilità di essere preso un po' in giro, sottovalutati, quindi alcuni non ne parlano volentieri, ma questo non vuol dire che non si ne occupa. No, io sono sempre curioso, non prendo mai in giro nessuno. Cerco sempre di capire qualcosa di più quando vedo persone che mi possono raccontare cose che io non conosco. Scusi, almeno sembra che l'ipnosi per lei è una sorta di training personale, la fa su di sé, non la fa sugli altri. La faccio su di me assolutamente, anche se ho studiato come farla sugli altri. Mia moglie si presta ogni tanto. Ah, si fa ipnotizzare sua moglie? Sì, anche. Poi c'è un fumetto, non so se lei, c'è un cartone animato, non so se guarda i cartoni animati della Fox, American Dad, sì. Che è un agente della CIA. Cattivissimo, naturalmente rappresentato al massimo del cinismo. Lui va ogni tanto dal programmatore della CIA, quello che usano per cancellare la memoria agli agenti che hanno fatto, e porta la moglie a togliere la memoria. Quindi la porta una volta all'anno da questo e toglie tutte le memorie alla moglie, così ogni volta ricomincia da capo. Qualcosa del genere accade a lei? Sì, la mia ricerca era nata nella telepatia, nella chiaroveggenza del passato, cioè non lo studio i ricordi di vite precedenti, perché io parto dall'idea che esistano, e questa poi è la chiave di lettura della mia ricerca personale, cioè non è possibile che in una frazione di tempo, com'è la durata media della vita all'interno del tempo universale, si possa fare tutto, capire tutto. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Arriviamo all'esperienza. Poi, dunque, lei fa una respirazione, compie una pratica. Con questa pratica è in uno stato di coscienza diversa rispetto a quella che adesso abbiamo lei seduti nel vagone di un treno. E quindi è coscienza. Si trova come in una dimensione parallela, una cosa del genere potrebbe essere. Sì, è una dimensione parallela dove però tu sei cosciente ora e adesso, nel senso che vedi in maniera stereofonica, e questa è la bellezza, e qui capisci anche la capacità del cervello di essere una cosa diversa da quello che pensiamo. Come un sogno lucido, quando siamo nel sogno ci rendiamo conto che stiamo sognando. La stessa cosa. Io proprio quello giusto. Va bene, perfetto. Ah, in questo stato cosa accade poi, improvvisamente? Dove va? Si esce dalla dimensione consueta e condivisa, si entra in un'altra dimensione. Lei ha la sua guida. Vediamo che accade quando va dall'altra parte, con un guida, senza guida, da solo. Certo. Che ha visto? Che è successo? Personalmente è successo questo, che mi trovo in un ambiente estremamente difficile, che è praticamente una battaglia. Capisco dal rumore dei fucili che è una battaglia orientata intorno al 1800. Si sente le calubrine che sparano, si sentono il rumore dei cavalli, si sente il sapore del sangue, del fango misto al sudore del cavallo, quindi una sensazione pazzesca, ipnotica, nel senso che è fortissima, e sembra di vivere lì. Poi io, tra l'altro, sono nato con due cisti che non ho mai capito cosa fossero, nel senso che ho fatto anche delle analisi. Due cisti? Paura. Due cisti all'altezza praticamente del fegato, una anteriore e l'altra posteriore. Durante questo film, se vogliamo chiamarlo film, mi sparano, e fatalità, mi sparano proprio con una fucilata che entra nella parte della cesta anteriore e esce dalla parte posteriore. Quindi lei avrebbe, diciamo, un segnale fisico di un'antica ferita avuta in questa battaglia, che lei allucina ogni volta che esce dallo stato. Tenga conto che ho avuto un dolore pazzesco, come se non avessero sparato, sul serio, cioè ho mollato un urlo che mi sono piegato dal male. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Poi cosa succede? Succede che io in questa battaglia praticamente sento che tutte le persone che sono a me affidate, i miei soldati, stanno morendo. Allora io incito tutte queste persone a dire: no, non dobbiamo star fermi, andate avanti. Scusi, mi sono detto una cosa importante. Parlavo in francese, c'è la registrazione. Lei conosce, ah, quindi come aveva, diciamo, improvvisamente acquisiva l'uso di una lingua che lei non ha studiato. Sì. È registrata questa sua voce è registrata? Sì, è registrata e l'ha tenuta. E che impressione le fa lei sentire parlare una lingua che come io sento? È incredibile. Anche perché io mi vedevo... Nell'ipnosi ero completamente diverso, ero grosso, non lo sono, ero riccio e rosso di capelli, io adesso sono calvo, ma a parte questo ero quindi è come se il suo software fosse dentro il corpo di un altro, ecco, una cosa del genere. Sicuramente, e ti sentivi anche con l'odore e la sensazione di questa persona, cioè non riconoscevi se non capendo che eri proprio tu, perché ogni volta che lui faceva qualcosa lo facevi tu, insomma, no? C'è una sensazione da questa. Mi ricordo la mano destra appoggiata nella sella e sentivo sulla mano l'odore del sudore del cavallo, ma lo sentivo anche ore dopo. Vabbè, lei era diciamo un soldato, un combattente in una battaglia ottocentesca, che guidava probabilmente dei suoi soldati, quindi un ufficiale probabilmente, e viveva la guerra in una sinestesia completa, cioè sentendo gli odori, il dolore, il rumore, era lì praticamente, era entrato in un'altra dimensione. Sì, ero lì fino a che non sono stato disarcionato da questa fucilata che avevamo dato prima. Cado, sento il cavallo che viene vicino a me senza vederlo, però sento un affetto incredibile verso questa bestia, era l'unica cosa che mi era rimasta. E dopodiché, insomma, arrivano due stivali e con una spada ammazzano. La finiscono a colpi di baionetta. Finiscono a colpi di spada. Quindi lei, questa è una morte, lei vive l'esperienza di una morte. Sì. Cruenta. La seconda, perché io sono nato prematuro, perché mia madre ha avuto dei problemi di tosse molto forti, no? Quindi sono, diciamo, mia madre usa dire ci ho spinto fuori. Io per anni ho avuto degli incubi in certe fasi della mia vita dove ricostruivo l'uscita e la nascita anticipata, perché mia madre mi ha spinto fuori. Fino a che non sono nato, momenti ci morivo secco perché ho avuto una tachicardia, perché era come nascere. Mi è successo con mia moglie vicino, che all'epoca eravamo fidanzati, eravamo in una baita e mia moglie ha detto: guarda, se non sei morto adesso non muori più. Perché io ho vissuto la mia rinascita praticamente in questo incubo. Cucu, lei ha dei flash in cui cominciano a riapparirgli delle esperienze. Questo darebbe forza la tesi che in realtà il tempo, come noi lo immaginiamo, è la nostra ipotesi. In realtà tutto accade contemporaneamente, quindi potrebbe essere, certo, spiegabile. Sto radicalizzando e semplificando, ecco, semplicemente per dire che non è che penso che lei mi stia raccontando dei suoi momenti di squilibrio, ma penso che ci sta tutto. Io sono profondamente laico, ma sono curiosissimo delle cose che non ho possibilità di conoscere o sapere. Detto questo, ma la sua esperienza, diciamo, del combattente ucciso, si ripete o una sola volta è accaduta questa cosa? Dunque, è accaduto solo una volta, perché la cosa è stata molto lunga e poi... Qui potrebbe essere anche un sogno molto realistico che lei ha costruito, sì, con elementi, perché noi abbiamo tutti questi elementi dentro: la puzza di cavallo, il sudore, il sangue, le guerre ne abbiamo viste tante al cinema, il mal di fegato. Lei potrebbe avere ricostruito un episodio come avesse avuto una sceneggiatura e gli elementi per costruirla. Non le è venuto mai questo dubbio? Sì, io sono uscito dallo studio pensando che fosse un puzzle che il mio cervello ha messo a posto e ha messo a punto per farmi rivivere un'emozione così. Sì, sì. Mi è successa però una cosa incredibile, ed ecco il motivo per il quale io poi ho continuato a studiare questi eventi. Mia moglie, con la quale sono insieme, praticamente lei aveva 15 anni, io 18, quindi faccio il conto, lei adesso ne abbiamo 52. E siamo sempre stati assieme, abbiamo una famiglia, due bellissimi ragazzi. E cosa succede? Succede che era un po' incuriosita dalle mie ricerche, che io raccontavo in maniera abbastanza approssimativa, perché poi lei capisce, sono cose molto molto le mogli non capiscono tutto, diciamo la verità. Bravo. Quindi? E succede che a distanza di 2 anni da questa mia esperienza, che io avevo richiuso nel mio cuore, la mia mente, avevo messo lì in attesa di essere praticamente rivista e rivisitata lentamente, mia moglie a Treviso, quindi io l'ho fatta a Bologna, 2 anni dopo mia moglie a Treviso con delle amiche che non sapevamo, non sospettavamo assolutamente fossero in grado di fare anche loro ipnosi, durante un pranzo di questa mia amica viene fuori il mio racconto e questa mia amica dice: beh, Carla, se vuoi, la vuoi provare anche tu, la facciamo qui. Allora mia moglie decide, dice sì, allora abbiamo sbaraccato la tavola, siamo usciti tutti, mia moglie con questa amica hanno fatto l'esperienza dell'ipnosi. Fa questa esperienza, termina l'esperienza, una durata un'oretta, un'oretta e mezza, mia moglie viene fuori felicissima, dice: ho fatto delle cose, Antonio, bellissima, ecco, là. Io lascio stare perché so perfettamente che quando esci da questa esperienza sei elettrizzato, no? Quindi magari non è obiettiva, è assolutamente. E quindi lasciamo la cosa non discussa per un paio di settimane. Dopodiché, insomma, succede cosa? Succede che lei mi racconta che era la moglie di un ufficiale francese durante la guerra napoleonica e che il conte, il duca, non so chi, del posto in Francia, a Parigi, la insidiava, e siccome la insidiava però lei era sposata, per quello era contenta, che era stata insidiata dal suo capo praticamente, di un'altra vita. Esatto, dal mio capo, il quale mi aveva mandato in campagna di Russia poi. Certo, allontanava e potersi fare la moglie tranquillamente, così accadeva in quei tempi. Oggi lei, che è un uomo di azienda, si promuove un dipendente, si manda in una filiale all'estero e poi si avvia libera, è la stessa cosa. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno va non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. Quindi sua moglie, ma quindi questo, prego, mi faccia capire, vi siete ritrovati in una dimensione diversa, nel senso era la moglie dell'ufficiale con i capelli rossi grosso morto? Beh, ma questo non era ancora evinto, cioè poteva ancora essere un caso, no? Cioè lei poteva essere questa dama del 1800, io potevo essere un ufficiale napoleonico, ma la cosa non ci riguardava completamente, perché lei era a Parigi, io ero in campagna di Russia insieme a altri milioni di persone. Non a caso, la cosa non era a caso, però. La cosa strana invece è questa che sto raccontando adesso, è che questa nostra amica comune di Treviso un giorno mi chiama e mi dice: guarda, mio papà mi continua a dirmi che devo darti una cosa, vieni su. Però il padre era morto 3 anni prima, quindi dico: scusa, ma mi prendi in giro? No, fa: guarda, io ce l'ho in sogno ogni giorno. Ah, sognava il padre, ci consegna questa cosa al nostro amico. Devo darla ad Antonio. E cosa le ha dato? Mi ha dato una stampa di proprietà del padre. Questa stampa era la campagna di Russia di Napoleone, esposta al Louvre. Io non sono mai stato in Francia, non parlo francese come l'ho detto prima, Quindi non, questo qua l'ho trovato, non l'avevo neanche mai visto. Quindi il terzo ufficiale dietro Napoleone ero io, visto nella mia ipnosi, cioè grosso, coi capelli rossi, come aveva immaginato. Ma tutto questo, certo, come lo mette insieme? Cioè, questo signore come faceva a sapere che le aveva, gli era stato riferito? Ah, non lo so. Non lo so, ma ho deciso che non mi interessa, perché la cosa sensazionale è quella che vi racconto adesso. Fino a che questa mia amica mi dà la stampa del padre, che raffigura il quadro, al Louvre, mia moglie, che era dietro di me, nella sedia dietro, guarda la stampa, sbianca completamente, dice: non ci credo, e con il dito punta il terzo ufficiale dietro Napoleone e dice: ma questo è mio marito, era mio marito. Quindi quello che io ero, mia moglie lo ha riconosciuto nella sua ipnosi 2 anni dopo in un altro posto. Ma sempre il signore capelli rossi? Sì, lo stesso. Ah, quindi, quindi diciamo vi siete ritrovati in un'altra dimensione spazio-temporale? Spazio-temporale, ma io non avevo mai detto a mia moglie che ero riccio e rosso, mai. Un'altra cosa incredibile è questa, che mette la cappella a tutto il ragionamento. Mia moglie, quanti erano gli ufficiali rappresentati in questa stampa? Molti? No, erano molti, era tutto l'esercito in campagna di Russia. Quindi figuriamoci, c'era una foto di gruppo, c'erano tantissime. Quindi, enorme, in mezzo, tra l'altro desolati tutti. Sforzo presente il quadro, non vorrei essere ambizioso, ma presente il quadro di Napoleone nella campagna di Russia con tutto il, con tutti i suoi il corpo ufficiali dietro. Incredibile, è un quadro gigante. C'è una disfatta, un senso di disfatta incredibile. Beh, certo. Tra l'altro questo ufficiale aveva il cappello d'ordinanza sopra gli occhi, quindi era anche molto difficile da riconoscere. Questo voglio dire, io l'ho riconosciuto perché il cavallo era bianco, qualche ricetto rosso. E non ha pensato di fare una ricerca storica per capire un po', sai, gli archivi, poi c'è tutto alla fine. Sì, l'ho fatta, ma è una cosa mia. Quindi però sa già il nome, sa tutto. Sì. Quindi sa tutto sul suo precedente. Abbastanza. Però non è questo che mi interessa, perché adesso io devo vivere questa vita. Però è interessante, io darei chissà che per sapere chi ero prima. La cosa strana e importante ancora in questa vicenda è che mia moglie, come le dicevo, ha una sorella gemella che è molto simile a mia moglie, che io avevo conosciuto in età da liceo, quindi ho 15-16 anni, ho conosciuto prima mia cognata, che mi piaceva molto in effetti, no? E poi invece si è presa la copia, tanto. Poi però ho conosciuto mia moglie, nel momento in cui ho conosciuto mia moglie, io, lei ha 15, io ho 16 anni e mezzo, 17, io ho detto: questa sarà mia moglie. Cioè io ho avuto l'impressione di aver incontrato la donna della mia vita. Era stata sua moglie al tempo della campagna russa. Ma non è così scontato, insomma, io tra l'altro ripeto. No, uno intanto cambia, perché se uno deve avere la stessa moglie in tutte le sue vite, ogni tanto uno forse vorrebbe cambiare, non lo so. Non ce la farei più. Infatti ci siamo ripromessi di non farlo più, questa cosa qui. E quindi? Comunque, insomma, voglio dire. Gemella, per capire, la gemella in questo cosa c'entrava? Niente. No, diciamo che la somiglianza forte porta a dire, vabbè, insomma, mia cognata poteva essere una persona estremamente aderente a quello che era il mio cliché di bellezza. Ma non sono gemelle, non sono uguali? Sono gemelle uguali o diverse? Trovando mia moglie ho visto che era mia moglie che dovevo sposare, insomma, questo voglio dire. Vabbè, comunque alla fine, per come la gira, questa è anche una bella storia d'amore, alla fine lei ritrova dei nessi sottili per confermare una storia d'amore con sua moglie, quindi questo è il senso. Poi le sue ricerche, la sua volontà di andare oltre quella che è la nostra conoscenza di esseri umani limitati a quello che vediamo, quello che tocchiamo e quello che ricordiamo, probabilmente le serve a compensare i momenti di tensione fra una decisione aziendale e l'altra. Quindi le auguro buon viaggio, però questo racconto so e immagino che abbia altri risvolti. Se ci rincontreremo un'altra volta in treno, vorrò saperne di più. Alla prossima. Grazie, buona vita a voi. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ecco, finalmente mi sento a casa. Questa volta non l'ho cercato, giuro, soltanto per caso. Forse lui che cerca me, il viaggiatore misterioso, il nostro Marco Polo, si affaccia, mi guarda sornione e sa che non resisterò alla tentazione di fargli qualche domanda. Ma in tutti questi viaggi ho mai mangiato qualcosa di strano che normalmente la gente non mangia, considera orribile? Ho fatto una rimpinzata, una panzata mai vista di sanguisughe fatte alla griglia. Sanguisughe? Le ho prese per budellini di agnello, come fanno in Sicilia, croccanti con le salse piccanti. Ma dove è questo? In Indonesia, in una festa tribale, ne ho mangiate talmente tante. Erano buone? Mamma mia, croccanti, poi con sto sangue dentro, sono sanguisughe bianche. Quelle magari al suo stesso sangue che... Ma dove lo succhiano? Dove lo succhiano sangue? Poi dopo sugli animali? Di animali, da... Poi nelle risaie in Indonesia c'è pieno di donne che raccolgono, seminano, puliscono e se si attaccano. Escono piene di sanguisughe, poi le staccano e se le mangiano. E le raccolgono i ragazzini. È come fare l'autotrasfusione praticamente. Ma guardi, hanno un gusto incredibile, quella qualità lì, eh. Come le cavallette, io ho mangiato, mangiavo le cavallette. Quelle lì con le reti quando le prendono. Ma lo sa che sia più buono quello con uno scampo e una mazzancola. Ma quelle anche fritte, come si mangia la cavalletta? Le mangia come i cani, io le facevo bollite con le salse piccanti. Vabbè, quando ci mette la salsa il sapore, è tutto uguale. 5, 6, 7 centimetri di carne bianca, ma buona, molto buona, eh. Beh, è un cavallettone grosso però, non quelle... vediamo... sono 10-15 centimetri, si chiamano lacuste quelle... No. Quelle sono quelle delle sette piaghe. Locuste, le locuste. La piaga delle locuste, sono quelle che mangiano tutto. Quelle lì, allora, quando sanno che arrivano, per difendersi il più possibile, mettono delle reti fini e si impiastano dentro. E poi se le mangiano. Ma ne prende quante ne vuole, quando arrivano giù... offuscano il cielo, sono migliaia, milioni. Però è come andare a pesca, sempre uno se ne mangia. Sì, questo lo fanno tanto tra le Filippine, l'Indonesia e la Malesia. È una maledizione quando arriva, quando arriva. Ma l'unico vantaggio è che poi uno se lo può mangiare al limite. Certo, con quello che fanno di danno. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Non le viene voglia di fare un altro viaggetto in questo periodo? In questo periodo, guardi, mi sono concesso, sono andato a Ischia. Vabbè, è vicino Ischia. C'ho mia figlia che parte, va in Indonesia e per inaugurare un villaggio a Flores, 20 chilometri da Komodo, dove fa questi bungalow con degli altri signori. E lei non l'accompagna? No, ci andrò quando fa la direttrice, lì andrò a trovare, ma farò sto viaggetto qui. È una buona zona per investire in Indonesia, per fare villaggi vacanze. Io sì, cioè, il turismo è sempre buono. Ma se oggi dovessi fare un investimento, paradossalmente avessi soldi, dove mi potrei comprare una casa per scappare e non essere più rintracciato? C'è un posto nel mondo in cui converrebbe secondo lei? Oggi mi fa delle domande. Ma no, viene a me, no, viene a me. Dovesse darmi un consiglio, sì. Guardi, me ne voglio andare, c'ho un po' di soldi, mi compro una casetta in un posto dove poi scompaio, che nessuno mi ritrova più. Ma forse sono quei posti che non conosco io, perché... Dove va lei si rintraccia tutto. Dove va lei, dove vado io al momento, pertanto che potrei portarla in certi posti per assurdo che lei dice qui non ci verrà mai nessuno, io ne sono già a conoscenza, capisce? Vabbè, uno basta, di lei mi fido. Ma credo, io ad esempio ho molto trascurato la zona caraibica, cose di, non lo so, un posto che mi affascina andare è il Belize. Ah, in Belize? Lo conosce il Belize? Sì, ci sono stato, c'è più banche che abitanti. Lo sa che lì non c'è la polizia, è privata, tutto privato. Lì ci vai solo se c'è molti soldi, però, sennò che non ti vogliono. Ma è un paradiso fiscale che non ne parla nessuno. Quanto c'è stato lei in Belize? Ma no, di passaggio, quei posti così, quando ne parlo così, massimo sono stato una settimana. È un posto, però è un posto di vacanza, in fondo sono Caraibi. No, lì, no, è sui due mari, perché c'è da destra a sinistra. Però no, non è vacanza, sono tutte... c'è un sacco di consolati, di ambasciate, di banche, c'è di tutto, ma... Beh, sempre Caraibi sono, però, le spiagge ci sono. C'hanno un clima, quasi, da una parte tropicale e dall'altra invernale alpino, Si sta bene, è un posto piacevole. Non vede niente, tutto nel verde. Lì, tra l'altro, c'è una legge che non può costruire sopra le palme, sopra i 12 metri. Quindi tutte le abitazioni sono basse, elevate, qualche grosso ufficio. Vabbè, è una bellezza però, c'è sempre un bel panorama. Sembra di vivere in una giungla. A un certo punto si satura però il Belize, perché se nessuno costruisce in altezza e solo in larghezza, alla fine finisce. È città, ma so già, città del Belize farà 500.000 di abitanti, Belize, tutto il Belize non credo che faccia 2.000.000 di abitanti. Vabbè, pensavo ci fosse stato. Guardi, l'unica compagnia che va diretta a Città del Belize da Francoforte è la Lufthansa, dove io lì ho sempre avuto il sospetto, l'idea che tanti nazisti sono tutti lì, o sono stati parcheggiati. Ormai sono morti, però probabilmente sì, andranno lì. Ma hanno parlato tanto dell'Argentina che li proteggeva Perón, del Cile, ma mi sembra che invece siano finiti Honduras, Belize, Costa Rica, in quei posti lì, dove poi se la città del Belize, lei parla tedesco, no, lo capiscono no. Tutti. Ah sì, basta parlare tedesco. Quindi evidentemente era il posto migliore, infatti. Beh, secondo me si erano già organizzati da prima della fine della guerra, figurati se non ci hanno pensato. Qualche sospetto viene. Sì, evidentemente. Quindi un buon posto per scappare sarebbe Belize, tanto per dire. Io penso, sì, che sia un posto da tenere in considerazione. Può essere protetto, certo, penso che per scappare così elevato bisogna farla grossa, nel senso. Perché ci vogliono tanti soldi, in posti come questi senza soldi che fare? Forse siccome quelli ci vuole più una protezione che tanti soldi. La protezione bisogna pagarla, però non è che la te danno gratis. Quindi, non è sempre detto, ad esempio io in certi posti io ho il passaporto diplomatico indonesiano, lo sa perché? No. Perché quando è venuto due o tre volte in Indonesia, se lo ricorda il ministro, quello Goria che è morto di tumore, sì, certo, che era direttore del banco di Novara, io lo conoscevo da anni, e lui mi ha fatto console onorario a Bali, da Denpasar, che avevo l'ufficio, tutto, una villettina, e il mio compito verso il governo italiano era quello di andare a ricevere qualche industrialotto, qualche politico che avrebbe fatto delle visite. Ah, quindi l'unico punto diplomatico era lei, diciamo, l'unico presidio di... Sull'isola di Bali, Denpasar, Vabbè, misoletta era come il console. Console onorario lo dice la stessa parola, una carica onoraria. Eh sì, ma c'era solo lei, però, non c'era il console vero. Non ho i poteri del console. Ma c'era un console a Bali, no? No, non c'era. E quindi quello onorario. Adesso per la comunità europea il console a Bali è un ragazzo greco, un signore greco. Beh, al tempo era l'unico rappresentante, anche se onorario, del governo italiano. Sì, sì, ma difatti se lei va a vedere sulla cosa della Farnesina c'è il mio nome e cognome. Ma ci si metteva il vestito d'ambasciatore, la console, no? No. Normale. Mettevo la coccarda della bandiera italiana. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. È una bella esperienza, penso, no? Sì, è venuto Fiorucci, è venuto qualcuno, Giorgio Cauter, non so se si ricorda sto cognome. No. È stato uno dei primi che hanno cercato di sequestrare Brigate Rosse a Milano, contemporaneamente con Gadolla, Fontana, Genova. E questo era venuto a diciamo, 69-70 era. A rilassarsi un po' da lei. C'è una sala di riunioni, sala ricevimento, dove perché diventa consolato ufficiale quando lo Stato italiano, la Farnesina, il governo italiano decide di mandargli due carabinieri. Quando allora arrivano due carabinieri e si impossessano della palazzina, diventa un consolato. E sono venuti quando c'era lei i carabinieri? No, mai. Erano a Giacarta. Oh. Due carabinieri trasformano un console onorario in un console vero? Eh sì, perché sono a difesa del territorio, diventa... Cioè, nel consolato onorario possono entrare chiunque, nel consolato ufficiale è violazione perché è territorio italiano. E ci sono i carabinieri a presidiare. E ci sono i carabinieri, due le mandano. Ma certo, uno mica basta, si danno il cambio. Ma quelli sono contenti, sono in vacanza. Ma pensate che pacchia, fare il carabiniere in un consolato, in un posto bello. Deve mettere la bandiera quando c'è il 25 aprile, deve mettere... Ma come fanno l'alzabandiera? Uno tira sulla bandiera e l'altro sta sull'attenti. E si alterna. No, dico, le bandiere si mettono nelle occasioni ufficiali. Gli altri giorni niente, al mare? L'altro giorno adesso ci sarà quella della comunità europea, quella dell'Italia e quella dell'Indonesia. Beh, però ha fatto anche il console, una bella soddisfazione. Difatti mi ha dato il passaporto diplomatico che c'è scritto che il rilassé è francese, c'è scritto che è stato rilasciato il presente documento per assistenza ai paesi del terzo mondo. E non scade mai il passaporto diplomatico? Il passaporto diplomatico non scade mai. Quindi tutta la vita con quello in tasca, cioè, prende tutte le porte aperte. Con l'Indonesia tante drogne me le fanno, sa? Ancora? Sì, ad esempio i paesi musulmani, cosa, non vedono mica tanto di buon occhio. Ma conviene sempre comunque alla fine. Sì, conviene sempre. Va bene, caro amico, ci sentiamo alla prossima. Saluto, arrivederci. Grazie. Il treno va. Hanno fatto un'indagine gli avvocati matrimonialisti italiani. Hanno scoperto che in realtà gli italiani si stanno rendendo conto, grazie alla tecnologia, che non tutti i padri sono realmente i padri dei loro figli. Pensate che c'è un kit che permette di accertare la certa paternità. È aumentato il 30% negli acquisti, quindi tutti lì a fare la prova con i capelli, con lo sputazza, con il sangue del proprio bambino per vedere se veramente è loro figlio, perché magari, non so, qualcosa tradisce nello sguardo, nel modo di camminare, nel modo di pensare. Insomma, gli italiani devono sapere che il 15% dei secondi figli hanno una paternità naturale diversa da quella che è l'ufficiale padre, quello che legittimamente ha sposato la madre. Il 25% dei terzi figli esattamente la stessa cosa, vengono chissà da dove, evidentemente non certo da un latto consumato d'amore e di coppia indissolubile benedetta dal Padre Eterno, compiuto su quel talamo coniugale. Questo mi ricorda un'antica storia, una storia che mi raccontava un mio collega calabrese, veniva da un piccolo paesino dello Ionio e mi diceva che il passatempo preferito al bar era la conta dei muli. Si intenda per mulo persona il cui padre naturale non è quello legalmente riconosciuto, ma altro personaggio del paese con il quale si mormora che la madre abbia avuto una questione, spesso anche il parroco. E inizia la conta. E con il contributo di tutti viene stilato un preciso database con tutti i campi possibili per risalire all'esatta genealogia dei muli. Madre, padre ufficiale, padre presunto, luogo del probabile concepimento, Porcile, campagna, giorno e ora del concepimento, eventuali testimoni, prove oggettive della mormorazione. Incrociando i dati si possono ottenere importanti informazioni sui flussi adulterini del paese, sui luoghi fatati dell'amore o su come migliorare la specie. L'unico problema, dato che il paese è piccolo, è rappresentato dal fatto che immancabilmente alla conta partecipano sempre uno o più muli inconsapevoli. La scientificità dell'operazione impone alla fine di includere anche se stessi nel database. Amen. Ed ecco l'audiolettera. L'audiolettera di un'ascoltatrice che sono sicuro, doppiamente sicuro, che mi ascolti con interesse superiore, che non perda una parola, che non perda un sospiro, che non perda un pensiero, che non perda un significato nascosto di quello che diciamo quando siamo sul treno, perché ne sono sicuro, perché lei ascolta ma non vede. Caro Gianluca, ti ascolto sempre ed è da molto che penso di raccontarti la mia storia. Premetto che sono una ragazza non vedente da circa 20 anni, ovvero da quando avevo 10 anni. Per me la radio è uno dei pochi mezzi che mi permette di fruire pienamente dei suoi contenuti. Come puoi immaginare, la mia condizione mi porta a vivere la vita da un'angolazione molto diversa da quella delle mie coetanee vedenti e ad apprezzare caratteristiche degli uomini che solitamente passano in secondo piano. Lavoro in un ente pubblico di una città medio-grande da circa 8 anni e faccio la centralinista. Il mio ufficio è in fondo ad un lungo corridoio al pian terreno, in una zona che definirei, nonostante la mia sensibilità, piuttosto silenziosa. Il contatto con le persone sul posto di lavoro è quasi solamente via telefono e ogni chiamata non si protrae quasi mai per più di 5 o 6 secondi, che non sono abbastanza per suscitare alcun interesse. Di me, gli amici dicono che sono carina ed ho scelto di fidarmi di loro. Da circa 2 mesi ho un nuovo collega che sta 2 uffici prima del mio. Lui è molto gentile con me, dice di essere single e spesso mi invita a prendere un caffè durante la pausa. Oserei dire che nel suo modo di fare e nei suoi atteggiamenti c'è qualcosa che mi fa supporre un suo interesse per me. Mia cara, non è necessario essere ciechi per capire che ti sta facendo la corte. È chiaro, gli piaci, ti sorprende, ma perché dovrebbe sorprenderti? Un uomo molte volte trova qualcosa di profondo, di misterioso, di insondabile o di desideroso di essere conosciuto in una donna che nasconde cielo a mondi a lui non permessi, a lui interdetti. E non esiste mondo interdetto per un uomo come quello di una donna che non vede la realtà ma la interpreta. Probabilmente è molto affascinato da te, ma soprattutto da il tuo punto di vista, e scusami il gioco perverso di parole, rispetto al mondo che lui vede sin troppo bene, ma del quale probabilmente ha molte domande da farsi, e forse tu puoi rispondere a quelle domande. Accetto sempre di buon grado il suo invito al caffè, però il motivo principale del mio interesse per lui non è dato dai suoi modi gentili, ma dal rumore dei suoi passi. Sì, quando lo sento arrivare, lo riconosco anche tra molti. Ha un passo sicuro ma calmo, e allo stesso tempo anche molto elegante. Io lo sento quasi come una danza, e il momento che letteralmente mi eccita di più è quando, dopo una breve pausa, riprende a camminare. Quella breve pausa mi dà lo spazio per immaginare i suoi pensieri e desideri. Vorrei sentirlo camminare all'infinito. È rilassante ed eccitante allo stesso tempo. La sensibilità al suono mi ha portato ad un livello di comprensione delle persone molto personale. Il resto di quel che vedo di lui con il mio naso, le mie orecchie e le mie mani non sempre mi soddisfa quanto il rumore dei suoi passi. Il mio quinto senso mi dice che presto mi chiederà di uscire per un aperitivo o qualcosa di simile, e se mai accadrà, non so davvero cosa farò. Amo come cammina, ma non tutto il resto. Ci si può innamorare di una persona per così poco? Fino ad ora non ho mai avuto un ragazzo. In passato altri non vedenti si sono fatti avanti, ma ho sempre rifiutato le loro avance, perché credo che la vicendevole commiserazione di questa disgrazia non sia affatto una scelta di vita felice. Certo, gli piaci, è sicuro, è scontato che tu le piaccia. Tu dici: mi posso fidare soltanto di quello che io di lui sento. Sicuramente, in questo punto di vista, sei anche avvantaggiata. Tu puoi evitare quello che è il colpo d'occhio, che molte volte è totalmente impietoso rispetto alla realtà che noi vediamo, che noi intuiamo, che noi sentiamo attraverso i nostri sensi. Puoi costruire su quest'uomo quello che vuoi e puoi fare di te certezza di quello che senti. Ti piace il suo passo? Evidentemente quanto ti si avvicina è qualcosa di importante. Evidentemente il mondo vibra nella maniera giusta, e quindi è la persona giusta. Persona giusta per cosa? Beh, certo, non ti dico che lui ti amerà tutta la vita, non ti dico che ti sposerà, non ti dico che ti farà felice, non ti dico che è l'uomo adatto per te, che sembra arrivato dal cielo. Ma perché dovresti avere una corsia privilegiata rispetto all'amore? L'amore è cieco, e te in questo momento sei proprio colpita da qualcosa che non vede e qualcosa che si sente. Quindi lasciati andare, sarà lui il tuo cane guida, o perlomeno sarà un cane che potrai mandare via quando vorrai, perché potrai farne benissimo a meno quando non ti piacerà più.